156. Pastella per le fritture. Farina grammi 100, olio fine una cucchiaiata, acqua vite una cucchiaiata, uova numero 1, sale quanto occorre, acqua ghiaccia quanto basta. Spegnete la farina col rosso d'uovo e con gli altri ingredienti, versando l'acqua poco per volta per farne una pasta non troppo liquida. Lavoratela bene col mestolo per intriderla e lasciatela in riposo per diverse ore. Quando siete per adoperarla, aggiungete la chiara montata. Questa pastella può servire per molti fritti e specialmente per quelli di frutta ed erbaggio.